Un salutone a tutti e tutti, 14ª puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la trasmissione Radio Wombat che parla dei fatti che accadono nella periferia nord-ovest di Firenze, narrati da chi nella periferia, in questi quartieri, ci vive e ci lavora, e quindi interviste, dirette e interventi. In diretta tutti i lunedì dalle 13.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Potete inoltre riascoltare le trasmissioni di Passaggio a Nord-Ovest in podcast oppure scaricare direttamente il podcast per riascoltare la trasmissione successivamente andando su wombat.noblogs.org, categoria podcast Passaggio a Nord-Ovest. Sempre su wombat.noblogs.org, lo streaming da cui appunto state ascoltando la trasmissione non solo di Passaggio a Nord-Ovest ma di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, così come nel menu podcast tutti i podcast delle varie trasmissioni di Radio Wombat. Profilo Twitter Radio Wombat e il profilo Facebook sempre di Radio Wombat sono Radio Wombat e Firenze in ambedue i casi. Per l'email posta wombat@inseberia.net e per contatti, proposte, richieste rispetto a Passaggio a Nord-Ovest potete utilizzare anche soscastello@inventati.org. E quindi dicevamo 14ª puntata di Passaggio a Nord-Ovest e questa volta siamo qui all'aperto, magari sentirete un po' di vento, un po' di fruscio durante la trasmissione. E parliamo di una piccola, relativamente piccola porzione di Firenze che gravita su via Morandi, su questa piazza, su questo appunto campone, nelle vicinanze, anzi tra Sodo Castello e Refredi. E quindi siamo qui con Marco, uno storico abitante di questo pezzo di territorio fiorentino tra le Panche e il Sodo e il Rifredi, il campone appunto come è stato soprannominato, e gli chiediamo appunto un identikit, diciamo, di questo pezzo di territorio fiorentino. Allora, il quartiere, intanto ciao a tutti, il quartiere è stato costruito tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 e era nato praticamente per asservire le fabbriche più che altro che si sviluppavano su Firenze Nova, la più grande, la Nuovo Pignone, e anche altre fabbriche più vicine su Castello, che insomma avevamo la Seves, alcune fabbriche chimiche, insomma una di quelle zone che avevano un tessuto industriale tutto sommato di tutto rispetto, cioè per essere una città come Firenze, una città che comunque a differenza di altre sul mezzo milione di abitanti giù di lì erano molto più industriali, insomma poteva dire di avere un quartiere storicamente operaio, che era il quartiere di Rifredi. E quindi una composizione prevalentemente proletaria, lavoratori e via dicendo. Sì, fondamentalmente sì, ad esempio anch'io, i miei genitori sono immigrati a Firenze dalle campagne toscane, e così anche la maggior parte delle persone. Basta anche dare un colpo d'occhio a Campanelli, no? Per vedere anche come cambiano le cose, i cognomi. Io mi ricordo che quando ero piccolo addirittura c'era quelli che si ritrovavano a seconda delle comunità di provenienza, quindi c'erano quelli che venivano dalle Marche, facevano le scene tra marchigiani, c'erano napoletani e si ritrovavano tra di loro, che uno bisognerebbe che pensasse, interi quartieri possono assorbire 3, 4, 5 mila persone tirati su nel giro di 2 o 3 anni e che ci arriva gente che non si conosce. Quindi questa era una composizione. La maggior parte delle persone lavorava appunto nelle fabbriche o anche a Careggi, negli ospedali, e quindi per la maggior parte erano operai o tecnici o impiegati, un ceto impiegatizio. Quindi direi una componente marcatamente proletaria, operaia e anche popolare, quindi fino a un ceto medio, per intendersi. Ceto borghese chiaramente lo si ritrovava più sulle strade un po' più fighe che partivano praticamente dalle pendici di Monte Morello, e quindi si andava verso le ville di Careggi, la zona un po' più carina sopra Cercina, insomma, dove già lì su quei poggi lì si vedevano le ville, insomma, per capirsi. Però per il resto, insomma, il quartiere sì, ha avuto questo tipo di composizione. Era un po' cambiata, però tutto sommato quel tipo di estrazione sociale è rimasta. E riesce a dare una dimensione numerica di quanti abitanti ci sono? Allora, sì, proprio sul campone credo che siamo nell'ordine tra le 2.000 e le 3.000 persone. E se si fa conto che è una strada lunga, un rettangolone, è lungo praticamente 300 metri e largo 60-70, si capisce un pochino le dimensioni della pressione demografica. Siamo tanti, infatti non si trova parcheggio. E perché Campone? E Campone perché era stato a lungo tempo un campo incolto con le betoniere abbandonate. Perché in quello spicchio lì, che ora adesso è un giardino, per la verità ci doveva venire su un altro blocco gemello agli altri, che invece sono già intorno e furono costruiti, e che invece, insomma, grazie anche alla resistenza e a, come dire, l'impegno delle persone, insomma, fu fatto un'occupazione. Alla fine fu occupato proprio quel pizzichettino di giardino incolto, di campo, appunto, di campone. In che periodo? Negli anni 70, ora di preciso non me lo ricordo, ma sarà stato un 76, un 78, quegli anni lì più o meno. Quindi insomma un periodo in cui le lotte sociali erano abbastanza... Assolutamente sì, tra l'altro ci sono anche delle documentazioni fotografiche del tempo, mi sembra c'è anche una foto, tra l'altro sono io in collo alla mamma, una di queste foto dell'occupazione del campone. E poi finalmente insomma l'amministrazione comunale capì che lì non era possibile costruirci un altro palazzone, l'ennesimo, e di conseguenza cosa successe? E dettero praticamente l'avvio alla costruzione di un giardino, quindi bloccando quella era la concessione edilizia, fondamentalmente. E quali erano, e anche alle sono tuttora, i riferimenti sociali nel quartiere? Se ci sono circoli, strutture di base e via dicendo, ecco. Ma una volta erano le case del popolo, i ragazzi uscivano dalle case del popolo, le compagnie, eravamo tanti, perché è chiaro, l'età demografica, l'età media ovviamente si è, come dire, spinta ben oltre i 40, prima eravamo, come dire, di più e più giovani. E sì, il riferimento erano le case del popolo, ad esempio nell'arco di 500 metri, un chilometro, ce n'era tre, quindi per ragazzi era facile, sì. Per quello invece riguarda attività sportive, sì, non tante, sempre stata una zona che non ha mai avuto tantissime zone a verde o comunque tanti posti dove poter andare a fare dello sport al chiuso. E poi per il resto, beh, niente. Nulla direi. Quindi vincoli di solidarietà abbastanza presenti, insomma, almeno sì, lo erano. fino a un certo punto, ecco. Sì, lo erano, lo sono stati perlomeno fino all'inizio degli anni 90, direi. Fino all'inizio degli anni 90 sì, erano percepibili. Poi dopo no, devo dire, la popolazione invecchiava molto, anche la qualità della vita secondo me è peggiorata. E onestamente no, si vive in un anonimato, un'atomizzazione per la quale è veramente molto difficile non riconoscersi. E rispetto a questi vincoli di solidarietà o comunque all'essere cresciuto nella zona, ti ricordi qualche episodio particolare, magari l'inizio, che ne so, di qualche iniziativa o qualcosa a cui ha partecipato? Ma io mi ricordo all'inizio degli anni 90 quando primo vero elemento di innovazione per il quartiere fu l'occupazione dell'Emerson, che dopo fu sgomberato da via Bardazzi, alcuni ragazzi, compagni e compagne si ritrovarono come gruppo di occupazione a prendere questa piccola fabbrica che era praticamente inserita dentro il quartiere. E sì, certo, mi ricordo delle iniziative, ma più che altro me lo ricordo anche quel posto dove si andava a pigliarsi il birrino, a sentirsi un concerto, a giocare a calcino. Ha sostituito e un certo qual modo è stata anche una forte presenza all'interno del quartiere, perlomeno per i primi 10 anni, senz'altro, senz'altro. E poi c'è stata anche un'altra occupazione, no, nel quartiere, proprio lì vicino ai Camponi. Sì, una piccola occupazione che si chiamava i Badaqua, tra l'altro, si affacciava proprio esattamente sotto casa mia, e i ragazzi, sì, al tempo decisero praticamente di prendere questa, era una vecchia autofficina, una vecchia carrozzeria, abbandonata da diverso tempo, era stata lasciata in eredità, non mi ricordo, da una signora, addirittura pensa alla misericordia, pensa a te, alla misericordia, ed era rimasta praticamente abbandonata. I ragazzi la presero e ci fu un bellissimo riscontro positivo del quartiere, che l'idea di tirarci su una biblioteca o comunque delle attività sociali puntate sul quartiere riscosse comunque, come dire, una bella accettazione da parte delle persone, si fermavano, andavano a prendere i libri, certo, però era un segnale, no? Indicava che comunque era una buona strada, che comunque le persone intorno, visto che quello lì era un bisogno effettivamente sentito, quindi uno spazio, una biblioteca, per dire, sulla parte di Firenze Nord, se si va a vedere che il centro è molto figo, no? Perché dice, ah, le oblate, abbiamo, come dire, i libri, no? Tutte queste cose fighe, no? Terrazzone, guardi il cupolone di lì, invece. Però noi, un quartiere di 100.000 abitanti è rotto, come il quartiere 5 c'è una bibliotechina a Novoli e poi non c'è nulla. Invece l'idea di metterla proprio in un quartiere popolare, proletario, era ottima come cosa. E ora che lettura dai dei quartieri? Ora le letture sono, la composizione, vabbè, è cambiata perché dietro gli ultimi anni una forte componente migratoria, chiaro che insomma, è diventato anche più difficile viverci, detto sinceramente, i rapporti sociali si sono un po' deperiti, detto sinceramente, però non ho visto ad esempio crescite di fenomeni odiosi né da una parte nei confronti dell'immigrato né da un'altra parte, come dire, fra le persone che abitano il quartiere da tanto tempo, quindi l'inasprirsi dei rapporti sociali vista la crisi che c'è stato, il cambio appunto di composizione sociale, no. E per fortuna ci sono tanti giovani, di cui la metà praticamente sono immigrati, che la percentuale è questa, dei giovani bambini che si vede vanno lì alla scuola, alla Don Minzoni, e che giocano nel giardino praticamente del campone, la metà sono immigrati. Quindi questa è la nuova composizione sociale. Quindi una tradizione, diciamo, di solidarietà che, seppur assopita, diciamo, non è stata, come dire, del tutto sconvolta, ecco, se non altro non ha, la desolidarizzazione non ha assunto quelle vette, diciamo, appunto, quelle grosse vette magari assunte in altre parti o altre zone della città, ecco. Sì, sembra che sia un'affermazione perfettamente corretta e calzante. E aggiungo che, come elemento qualificante, che quei pochi posti che reggono, quei localini, che non sono proprio localini brutti e stupidi, ma insomma alla fine sono piccoli, come dire, centri arci, penso a Frammenti e Tram e via dicendo, sono riusciti comunque a convogliare anche un po' di ragazzi che hanno voglia di ritrovarsi, ecco. Perché comunque sia posti, centri di aggregazione, se escludiamo il centro sociale, il Next Emerson, che è più grande, però proprio dentro il tessuto cittadino, come può essere un Frammenti e Tram, mi sembra ce ne sia anche un altro, il Monche, un altro circolino Arci, ecco, devo dire, hanno raccolto la simpatia un pochino dei ragazzi, dice, adesso c'ha 18-20 anni, ecco, per intendersi. Gli anziani, per dire, però non sanno dove andare, ecco. Sanno sbattere il capo, per dire, una fascia d'età, dice, poi vabbè, un giovane alla fine un pinzolo del governo monta su un motorino, fissa con gli amici, va in centro, però un anziano che si muove poco, c'è un po' l'elemento un po' di solitudine su quello lì. E quali sono i problemi su cui magari ci fosse una componente, come dire, di lotto, un percorso, quali sono i problemi su cui si dovrebbe intervenire, ecco, e su cui anche magari la popolazione è sensibile e sa che risolvendo questi problemi risolverebbero in meglio la qualità della vita? Ah, prima di tutto un vero parco vicino, che la possibilità tutto sommato c'era, e che c'era, come dire, lo spazio che poi dopo non so come sono andate a finire le cose, chiuso dei pazzi, no? Com'era? E via dicendo, che però son tutti pezzettini non goduti, non fruibili, e via dicendo. E lo spazio praticamente, che è praticamente agricolo, però che è una proprietà agricola, che però poteva essere espropriato dal comune per farne un parco, e che è sulla nuova strada che porta a Careggi, praticamente quella è da San Pio X, si spinge verso Careggi. E lì sì, lì uno spazio a verde sarebbe stato opportuno, e la gente l'ha sentito molto il bisogno, sì, cioè di avere uno spazio dove poter passeggiare, dove potersi sentire, come dire, un po' più in tranquillità, senza avere proprio le case vicine, il traffico e i rumori. Che, insomma, il giardino del Campone lo si chiama giardino, però insomma, ecco, c'è un coraggio. Ecco. E in quanto a servizi pubblici, servizi sanitari, com'è la situazione? I servizi sanitari, cioè il plesso di Careggi vicino, e per quello lì tutto sommato, e no, devo dire che chi deve andarsi a fare le analisi, diciamo da questo punto di vista qui, è ben servito. Però per quello riguarda un socio sanitario, quindi comunque dei posti dove può andare l'anziano, come dire, un centro di quartiere su modello Hauser o comunque, ecco, quello lì, visto che la componente anziana è molto forte, che ora è così suddivisa o immigrati o anziani, sì, onestamente mancano degli spazi per delle persone che abbiano insomma una certa età, per intendersi, puntate su di loro, come manca, ribadisco, una biblioteca per i più giovani, che quella sarebbe una dimensione molto interessante. Biblioteca, spazi anziani e verde pubblico. E se dovessi scegliere un quartiere di Firenze dove abitare, comunque rimarresti lì, considerato anche il rapporto con l'abità, insomma. Sì, rimarrei penso su Rifredi prima di tutto, perché i costi degli affitti o comunque in generale sono ancora abbastanza bassi, considerando che Firenze è sotto questo processo di gentrificazione potentissimo, e quindi c'è una crescita degli affitti, del prezzo praticamente di tutto, anche perché si può comprare una casina con mutuo, anche una coppia, c'è un po' di soldi da parte, può provare a farsi la sua casa, insomma è dura e costosa, quindi no, sì, rimarrei su Rifredi fondamentalmente. Mi piacerebbe magari avere un pezzettino di terra, fare un orticello, un pochino di verde, quello lì sì, e nei condomini insomma, no, ecco, questo sì, esatto, più facile sentire il colpo di tosse, no, il pianto di un bambino, perché poi le costruzioni degli anni 70 insomma sono dei muri, sono dei cartoni, ecco, quindi si può immaginare quello che manca, no, anche quello lì, ma un maggior grado di libertà, di rilassatezza, dicendo. Quindi il Campone, diciamo, c'è ancora, ecco, ancora il Campone c'è ancora, sì, certo, c'è, fieri del Campione, c'è ancora la sua fisionomia, la sua, una sorta di identità, ecco. Sì, ecco, su questo vi aggiungo, visto insomma in questi giorni si gioca il calcio storico, che è un quartiere azzurro. Siamo per gli azzurri, per giusto rimarcare. Qualcheduno una volta, quando c'era Verdi e si allenavano in via Caccini, era per Verdi, però a macchia di leopardo, però direi la componente più forte è quella azzurra. Allora ringraziamo Marco. Ma prego, grazie a voi, quando volete. E alla prossima per Passaggio a Nord-Ovest. Che lo ricordiamo, potete ascoltare in diretta, sempre in streaming, dal sito wombat.noblogs.org, andando allo streaming, così come la replica, e questo, la diretta è lunedì alle 13.30, così come le repliche, sempre alle 13.30, dal martedì al venerdì, sempre in streaming e sempre su Radio Wombat. Il podcast di questa 14ª trasmissione e delle trasmissioni precedenti di Passaggio a Nord-Ovest li potete ascoltare oppure scaricare per ascoltare successivamente andando alla sezione podcast di Radio Wombat, e quindi successivamente alla sezione Passaggio a Nord-Ovest.